place of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Insomma, le cose più o meno stanno così. Dalle parti nostre, soprattutto se siete adulti, stiamo ancora realizzando che di fatto Halloween è diventata una festa vera nell'agenda anche degli italiani. In America invece questo lo sanno, è un dato accertato, è la festa delle feste, anche con quel brivido un po' dark che la contraddistingue, e si festeggia in grande stile ovunque, Casa Bianca, anzi Casa Arancio compresa. Se ne sono viste delle belle Halloween alla Casa Bianca. Prima di tutto se ne sono visti 2000 di ragazzini invitati con uno stranissimo meccanismo di selezione che solo i pazzi americani possano inventare nelle scuole del distretto di Columbia e stati limitrofi. Poi si è visto un indimenticabile portavoce della Casa Bianca, Robert Gibbs, vestito da Darth Vader, no? Il cattivo di Guerre Stellari. Si è vista Susan Rice, l'ambasciatrice americana all'ONU, vestita da Pippo. And we could say personally thank you to all of you. To our staff who worked so hard every single day. Si è visto un presidente Barack Obama vestito da prete, ma non nel senso che si era mascherato da prete, nel senso che si era vestito nel modo più modesto e invisibile possibile, col golfino girocollo scuro e la camicetta bianca. Fare purtroppo non resiste, ha beccato 2000 bambini, li ha messi a sedere e gli ha fatto il discorso. Si è vista una Michelle Obama che è stata un po' criticata perché, ma perché la criticate per queste cose almeno, insomma, ma comunque alcuni hanno detto si esagera un po', ma chi si crede di essere? Maria Antonietta, di fatto c'aveva una camicetta leopardata e i pantaloni neri, giocava a Catwoman, ma come ci può giocare una mamma? E poi si sono visti questi M&M firmati Obama, che secondo me stanno già, se li andate a cercare su eBay, perché saranno un oggetto di culto assoluto, e qualche regaletto, dolcetto, scherzetto è rimasto segreto, come erano vestiti Sasha e Malia, perché così vuole lo spirito politicamente corretto di Casa Obama nel weekend che ha preceduto una settimana assai assai importante. Primo piano. One year ago tonight, Barack Obama was out on the campaign trail heading to victory under the banner of Yes We Can. Today, ecco, questo non è un servizio di un anno fa che dice che Barack Obama parte in campagna elettorale e dice Yes We Can, è un servizio di adesso, di questi giorni roventissimi, perché domani si vota in America, il primo martedì di novembre è il giorno in cui in America si vota per qualsiasi cosa, dal presidente fino a delle occasioni più locali come quelle che andranno in onda in scena domani. E Barack Obama, dopo molte incertezze anche molto criticate, perché gli hanno detto ma che fai tu, vai solo dove si vince, dove già la vittoria è annunciata, dove lo Yes We Can in un certo senso è già dato per scontato, devi andare anche dove lo Yes We Can può somigliare a una rimonta. E alla fine lui si è mosso con una certa intensità, ma non con l'intensità dovuta. Per esempio, non è andato a New York a fare campagna elettorale per il candidato democratico, e questa è una cosa importante, però si è mossa per quello che sentivamo annunciare poco fa, ovvero si è mossa per John Corzine, il governatore del New Jersey in cerca di riconferma, a lungo sotto nei sondaggi rispetto all'avversario, il repubblicano Christie, adesso in decisa rimonta, e sembra proprio destinato a farcela, sembra, non è detto, è un testa a testa piuttosto interessante, che tra l'altro vede un terzo incomodo nella parte, un candidato indipendente nella parte del lago della bilancia, potrebbe togliere voti a Christie e lasciare che Corzine scivoli fino alla riconferma nella presidenza, nella governatorato dello stato del New Jersey. Invece sembra compromesso per i democratici lo stato della Virginia, il famoso stato che Barack Obama con una delle spallate decisive in senso elettorale conquistò nel 2008, insomma andando così poi a vincere in grande stile le elezioni. Ma adesso ci hanno, almeno per questa occasione, parzialmente ripensato gli elettori di questo Stato, che sembrano preferire decisamente il repubblicano Bob McDonnell, che secondo i sondaggi pubblicati oggi dal Washington Post questa mattina avrebbe addirittura 11 punti di vantaggio sul rivale, il democratico Craig Deeds, tra l'altro ribattezzato come un obamiano di ferro. Ed ecco quindi che già naturalmente volano ad alzo zero le osservazioni pesanti: con Obama non è detto che si vince, non basta mettersi la spilletta di Obama. Obama, che è stato lungamente restio a fare campagna elettorale in Virginia, alla fine ci è andato, ma molto tardi. Ha parlato alla Università Old Dominion, una delle grandi università dello Stato, ha detto: tanta gente mi dice che i sondaggi non sono positivi, che non è certo che ce la faremo, dovete ascoltarmi, non credo al non si può fare, non credo alla rinuncia, ma insomma tutti slogan un po' sul non, e qui la cosa sembra un po' andata. Invece dove è molto delineato l'andamento del voto è nella città delle città. Who are you betting on at the VMAs? Well, I think that you and Lady Gaga, the big stars. Lady Gaga, that's right. Wow. And NYU graduate. Great, Lady Gaga, you heard. Essendo uno che non si tira mai indietro davanti a niente, Bloomberg, lo abbiamo visto fare la fila per un quarto d'ora, ve lo possiamo garantire, un quarto d'ora d'orologio dietro i New York Yankees alla fine della partita delle World Series. Hanno intervistato tutti i New York Yankees e Bloomberg, che poi è piccolissimo, era l'ultimo della fila e toccava la spalla di quello che lo precedeva, ha aspettato per un quarto d'ora per dire che era stata una gran bella partita e che era molto contento che New York fosse tornata ad ospitare le World Series. Come avete ascoltato, parla anche su questioni di cui teoricamente non dovrebbe sapere niente, come gli MTV Awards, e dice che Lady Gaga è una grande favorita e che gli MTV Awards stanno bene a New York, perché è la città della città, è il crossroads of the world, è il crocevia del mondo. Di fatto ha messo, tanto per essere pragmatici, 250 milioni di dollari di tasca propria per vincere le elezioni senza troppe discussioni, e ci dovrebbe riuscire, perché Thompson, assessore al bilancio democratico che lo fronteggia, non sembra mai averlo seriamente impensierito. Anche in questo caso rampogne per Barack Obama, che non è andato a New York a parlare in favore di Thompson. Good morning all of you. I'm very glad to be here and I'm glad for the supporters on many many sides. Questa signora, della quale secondo me risentiremo parlare, segnatevi il nome anche perché è facile da ricordare, facile e difficile, ma comunque è italiano. Lei si chiama Dedi Scozzafava sembrava la favoritissima a vincere in un distretto assai particolare, il distretto elettorale 23 dello Stato di New York, che è stato individuato, come piace fare agli americani, come la cartina tornasole di queste elezioni, di questo voto parziale. Si è detto: se i repubblicani, che vincono sempre nel distretto 23, vincono anche questa volta, vuol dire che l'effetto Obama, nonostante tutto, può essere contenuto, può essere arginato, tanto più in presenza di una brava candidata come Dedi Scozzafava, una riformista, centrista, equilibrata, che un bel giorno si è incavolata seriamente, perché c'era un altro candidato repubblicano che gli stava dando molto molto fastidio, con tematiche ben più estreme delle sue. Lei ha detto: io non voglio che questa elezione diventi una guerra civile, io credo alla grande tenda di Ronald Reagan che raccoglie sotto di sé tutto il partito, non voglio che Sarah Palin, come ha fatto, o che Glenn Beck, come ha fatto, mettano bocca in questa votazione, io mi ritiro per sfiducia nei confronti del mio partito e sapete che faccio? Do ai miei elettori l'indicazione di votare per Owen, ovvero il candidato democratico in quel momento in svantaggio. E sapete perché? E questa è una motivazione che di questi tempi non so perché, ma ci piace un sacco, perché è una bravissima persona. Unfortunately. Palestinians are accusing Secretary of State Hillary Clinton of undermining progress toward Mideast peace talks. That's just hours after Clinton tried to revive talks between Israel and the Palestinian Authority. And I appreciate the very positive words about the need to get. Questa è la voce di Hillary Clinton che manifesta una così moderata, composta contentezza per alcuni segnali positivi nell'ambito della eterna marcia dei colloqui di pace israelo-palestinesi. E viene, insomma, questa è una settimana di bilanci per quello che riguarda l'America e il suo ruolo nel mondo, no? Scade l'anno dall'elezione di Obama e si va a vedere, si va a fare la conta, si vanno a mettere crocette e visti, rossi e verdi, no? Riuscito, non riuscito, fatto, non fatto. Ci si accorge che nella agenda di Obama e della sua amministrazione in realtà non ha mai assunto un ruolo seriamente centrale anche sugli scenari internazionali, nonostante i ripetuti indirizzi nei confronti del tema in questione, la soluzione del problema israelo-palestinese. Tant'è vero che anche mediaticamente questo tema è lentamente andato giù, no? Andato a fondo, si è quasi sommerso sotto altre notizie, magari più cariche di drammaticità e anche certamente di novità, di dati innovativi. Adesso ci si rende conto che è in atto l'ennesimo tentativo di ripartenza, che dopo i risultati non brillantissimi raggiunti da Mitchell, adesso è la volta di Hillary Clinton di provare così a far collimare quegli assi che mai sembrano volerlo fare. C'è sempre qualcosa che non funziona, una precisazione da fare. Questa volta, come ascoltavate poco fa nel servizio americano, sono i palestinesi ad essere seriamente incavolati con Hillary Clinton perché la questione degli insediamenti non sta prendendo l'indirizzo giusto. Ma di fatto ci sembra che i più che passi siano passettini o forse leggere orme quelle che si stanno segnando sul terreno in questa direzione. Mi sembra che ben poco stia procedendo nel modo migliore. Abbiamo Maria Grazia Enardu, che insegna storia di Israele moderno e storia delle relazioni internazionali all'Università di Firenze, che ci accompagna sempre in questi ragionamenti, e a lei, dopo averla salutata e ringraziata, chiediamo un po' il barometro di questo argomento. Ma Maria Grazia, prima di tutto vorrei chiederti, ma non hai anche tu la sensazione sia un po' scomparso, no, dal panorama della comunicazione, dell'informazione, questo argomento che poi tutto a un tratto ridiventa centralissimo? Che dici? Buonasera. Ciao. Innanzitutto penso che lo scomparire possa anche essere una cosa positiva, perché quel che conta alla fine è il lavorio dietro le quinte, e qui di quinte dietro le quali lavorare ce ne sono tante, in Israele, nei territori palestinesi, nel mondo arabo e anche all'interno degli Stati Uniti. Quindi l'effetto mediatico a volte è molto negativo. E detto questo, da quello che si sa, e alla fine si sanno parecchie cose, gli americani hanno fatto qualche passo indietro, questo non c'è dubbio. La signora Clinton una settimana fa ha mandato un rapporto alla Casa Bianca dicendo che tutto era praticamente fermo. Ora hanno ripreso a medio livello rimandando Mitchell per l'ennesima volta in Palestina e in Israele. Ha ripreso la signora Clinton con un lungo giro che è ancora in atto e in Marocco, e la settimana prossima probabilmente, quasi sicuramente, riprenderà Obama, perché ci dovrebbe essere un incontro Obama-Netanyahu. Quindi l'impegno è massimo, i problemi sono enormi. Noi continuiamo a leggere che la questione della costruzione di nuovi insediamenti è diventato un po', no, l'ago della bilancia, ovvero il sì o no, il passo da fare o non fare. Ma prova a spiegare a noi, insomma, meno vicini e informati di te alla questione: è possibile che questo distinguo diventi la madre di tutti i distinguo e diventi poi, come dire, uno scalino così insormontabile? È uno scalino insormontabile perché non è solo politico, è anche soprattutto filosofico. Certo. Mesi fa il presidente Obama chiese il congelamento totale degli insediamenti e lo chiese per un periodo di tempo limitato, però in quel periodo il fermo doveva essere totale, non solo nel West Bank in generale, ma anche e soprattutto in quell'area delicatissima che è Gerusalemme Est. Questo non è avvenuto, o meglio, anche dove Israele ha dato parziali assicurazioni, poi si sapeva che sul terreno, alla voce progetti già approvati, continuava a fare anche a Gerusalemme Est. La signora Clinton, apprezzando la posizione di Israele che ridimensiona alcune di queste nuove costruzioni, ha espresso un apprezzamento che oggettivamente è una marcia indietro. Questo lo stanno dicendo i palestinesi, e in questo momento in Marocco la signora Clinton si sente dire la stessa cosa da personaggi di calibro ben maggiore, come il ministro degli esteri saudita, e naturalmente i marocchini padroni di casa, ma anche egiziani e giordani che sono lì apposta per parlare con la signora. Ecco, Maria Grazia, vogliamo dire per concludere che se comunque Netanyahu prende l'aereo e va a Washington, dove dovrebbe incontrare Obama, è segno che qualcosa da dire, qualcosa da fare, no? Un argomento da affrontare una volta si siedono attorno a un tavolino ci deve ben essere, possiamo ipotizzarlo, insomma. Sì, il fatto che Obama abbia accettato di vederlo è una grande concessione. Si sapeva. Perché è un'iniziativa di Netanyahu, è una richiesta di Netanyahu. Netanyahu doveva andare negli Stati Uniti invitato da alcune organizzazioni ebraiche per incontri con la comunità ebraica. Si sapeva che sarebbe andato soltanto se avesse avuto assicurazione di poter anche incontrare il presidente Obama. Ora la notizia è data praticamente per ufficiale, quindi Obama ha accettato di incontrarlo. Cosa si diranno, soprattutto come se lo diranno, lo sapremo probabilmente lunedì prossimo sera. Ci vogliamo risentire nei prossimi giorni, magari per commentare insieme questa nascita piuttosto strombazzata di J Street. Non ne avevamo già parlato, i media americani ne hanno discusso molto. Se sei d'accordo, ne riparliamo presto. Più che volentieri, grazie. Va bene, grazie. Strade di progressismo ebreo per arrivare a soluzioni diverse, a sponsorizzazioni diverse anche dei percorsi di pace nella questione israelo-palestinese. Le affronteremo nei prossimi giorni qui a Buongiorno America, dove ci sono io, Stefano Pistolini, c'è Gloria Guerrera in redazione, Valerio Rocchetti e Pietro Lacorte a Roma e Milano per la parte tecnica, una mail, buongiornoamerica@radio24.it, una pagina Facebook, redazione Jefferson 3, una replica dopo mezzanotte, una diretta domani dopo 1:30 qui su Radio 24. State tutti bene.